Sparita la neve da zucchero, venne la primavera. Lungo la tortuosa staccionata, gli uccelli cantavano tra le macchie di noccioli che stavano mettendo le foglie. L'erba spuntò di nuovo verde e i boschi furono pieni di fiori. Si vedevano dappertutto i ranuncoli, le violette, le scrofularie e le minuscole corolle stellate degli altri fiorellini selvatici. Non appena le giornate si fecero più calde, Laura e Mary chiesero il permesso di andare in giro scalze. Da principio fu loro concesso di andare a piedi nudi soltanto fino alla catasta di legno e ritorno. Il giorno seguente poterono andare più lontano e ben presto le loro scarpe vennero ingrassate a dovere e riposte. Ed entrambe poterono andare scalze per tutta la giornata. Tutte le sere, prima di coricarsi, si dovevano lavare i piedi. Sotto l'orlo delle gonne, le caviglie e i piedi erano abbronzati come la faccia. Avevano le loro case per giocare sotto due grandi querce davanti alla casa. La casa per giocare di Mary si trovava sotto l'albero di Mary e la casa per giocare di Laura si trovava sotto l'albero di Laura. L'erba morbida formava un soffice tappeto verde. Il fogliame verde era il tetto e attraverso quel fogliame le due bambine potevano vedere due piccoli squarci di cielo. Il babbo costruì un'altalena con un pezzo di robusta corteccia e l'appese a un grande ramo basso dell'albero di Laura. Era l'altalena di Laura perché si trovava sul suo albero, però lei non doveva essere egoista, doveva permettere a Mary di dondolarvisi ogni volta che ne aveva voglia. Mary aveva un piattino attraversato da una screpolatura per giocarci e Laura aveva una bella tazza alla quale mancava soltanto un grosso pezzo che si era rotto. Charlotte e Nettie, oltre ai due bamboccini di legno che aveva fatto il babbo, abitavano nelle case per giocare insieme a loro. Ogni giorno le bambine fabbricavano dei nuovi cappellini di foglie per Charlotte e per Nettie e facevano delle minuscole tazzine e dei piattini di foglie per la loro tavola, che consisteva in una bella pietra molto liscia. Saki e Rosie, le mucche, furono lasciate andare libere nei boschi a questo punto perché brucassero l'erba e le succose foglie nuove. Nella stalla adesso c'erano due vitellini e nel porcile c'erano sette porcellini insieme alla loro mamma. Nella radura che aveva ricavato l'anno precedente, il babbo arava, girando intorno ai ceppi degli alberi recisi e spargeva le sementi del suo grano. Una sera tornò a casa dal lavoro e disse a Laura: "Immagina cosa ho visto oggi!" Laura non seppe indovinarlo. "Dunque?" disse il babbo, "questa mattina mentre lavoravo nella radura ho alzato gli occhi e lì, proprio al margine dei boschi, c'era un cervo, anzi una cerva. E non immaginerai mai che cosa aveva con sé. Un cucciolo, un cerbiatto!" indovinarono insieme Laura e Mary, stringendosi le mani per l'eccitazione. "Infatti," disse il babbo, "aveva con sé il cerbiatto, un cosino bellissimo, del più bel marrone chiaro, con due stupendi occhioni scuri. Aveva gli zoccoli piccolissimi, non più grandi del mio pollice, le zampette sottili e un muso morbidissimo. Stava lì e mi guardava coi suoi occhioni dolci, come se stesse domandandosi cosa ero mai. Non aveva nessuna paura." "Non spareresti a un piccolo cerbiatto, vero papà?" chiese Laura. "No, mai," rispose lui. "E non sparerei nemmeno a sua madre o a suo padre. Niente caccia adesso fino a che tutti i piccoli animali selvatici non siano cresciuti. Vorrà dire che faremo a meno della carne fresca fino all'autunno." Il papà disse che non appena terminata la semina sarebbero andati tutti in città. Ci potevano venire anche Laura e Mary, ormai erano grandi abbastanza per poterlo fare. Le bambine furono molto emozionate da questo annuncio e il giorno dopo provarono a giocare ad andare in città. Non lo seppero fare troppo bene, perché non erano molto sicure di come fosse una città. Sapevano che in città c'era un grande negozio, il magazzino, ma non ne avevano mai visto uno. Da quel momento in poi, quasi tutti i giorni Charlotte e Nettie chiesero se potevano venire in città e ogni volta Laura e Mary rispondevano: "No, cara, tu non ci puoi venire quest'anno. L'anno venturo, forse, se sarai stata buona." Poi, una sera il babbo disse: "Domani andremo in città." Quella sera, benché si fosse a metà della settimana, la mamma fece il bagno a Laura e a Mary e poi si occupò dei loro lunghi capelli. Li divise in tante ciocche, Pettinò ciascuna ciocca con il pettine umido e poi le arrotolò strette strette intorno a una fettuccia. Le bambine si ritrovarono con tanti piccoli nodi tutto intorno alla testa e li sentivano da qualunque parte voltassero la testa sul cuscino. Però alla mattina i loro capelli sarebbero stati ricci. Erano così agitate che non si addormentarono subito. La mamma non stava a sedere vicino al suo paniere dei rammendi come al solito. Era indaffarata a preparare tutto per una rapida colazione e a disporre per bene le calze più belle, le sottovesti, gli abiti, la camicia buona del babbo e il suo abito di cotone stampato marrone, quello con i fiorellini rosso cupo. Le giornate si erano allungate intanto. La mattina la mamma spense il lume prima ancora che si fosse terminata la colazione. Era una bella mattina limpida di primavera. Dopo aver sollecitato Laura e Mary a fare colazione in fretta, la mamma si sbrigò a rigovernare. Poi le bambine si misero le calze e le scarpe mentre la mamma rifaceva i letti. Dopo, la mamma aiutò Laura e Mary a mettersi i loro abitini migliori, quello di Mary in cotone stampato blu e quello di Laura in cotone stampato rosso scuro. Mary aiutò Laura ad abbottonarsi l'abito dietro la schiena e dopo la mamma abbottonò quello di Mary. La mamma levò loro le fettucce dai capelli e li pettinò in lunghi riccioli tondi che pendevano sopra le spalle. Pettinava così in fretta che i piccoli grovigli facevano un gran male. Mentre Mary aveva dei bei capelli d'oro, quelli di Laura erano di un colore bruno come quello della terra. Terminato di pettinarle, la mamma mise alle bambine i cappellini di paglia e ne assicurò i nastri sotto il mento. Si appuntò al colletto la spilla d'oro. E stava mettendosi il cappello quando papà arrivò al cancello. Aveva strigliato i cavalli fino a farli splendere. Aveva ripulito l'interno del carro e aveva messo una coperta pulita sul sedile. La mamma con la piccola Carrie in braccio si mise sul sedile accanto al papà e Laura e Mary presero posto su una tavola assicurata dietro il sedile alle sponde del carro. Erano tutti felici mentre attraversavano i boschi ravvivati dalla primavera. Carrie rideva e saltava. La mamma sorrideva e il babbo guidava i cavalli fischiettando. Il sole splendeva luminoso e caldo sulla strada. Dai boschi pieni di verde provenivano freschi profumi. Davanti a loro, sulla strada, apparivano ogni tanto le lepri, con le zampine anteriori sospese davanti ai musetti palpitanti, e il sole illuminava le loro grandi orecchie frementi. Subito le bestiole scappavano con un gran salto e si vedeva il guizzo della minuscola coda candida. Due volte Laura e Mary videro i cervi che le stavano a guardare coi loro occhioni scuri semi nascosti tra l'ombra degli alberi. C'erano 7 miglia per arrivare in città. La città si chiamava Pepin e sorgeva sulle sponde del lago Pepin. A un certo punto Laura cominciò a intravedere fra gli alberi dei tratti di acqua azzurra. La dura strada si trasformò in soffice sabbia. Le ruote del carro vi affondarono profondamente, i cavalli tirarono e sudarono. Il babbo li fece fermare più volte perché riposassero qualche minuto. Poi, d'un tratto, la strada uscì dai boschi e Laura vide il lago. Era azzurro come il cielo e si estendeva fino alla fine del mondo. A perdita d'occhio, lei non vedeva altro che una distesa piana di acqua azzurra. In fondo, molto lontano, il cielo e l'acqua si congiungevano e in quel punto tracciavano una linea di azzurro più intenso. Il cielo era grande sopra la testa di Laura. Lei non aveva mai saputo che fosse così vasto. Intorno c'era tanto spazio che si sentì piccola e impaurita, contenta che il babbo e la mamma fossero lì. Da un momento all'altro il sole cominciò a scottare. Il sole stava quasi al centro del cielo immenso e vuoto e i freschi boschi erano lontani dalla sponda del lago. Perfino i grandi boschi parevano più piccoli sotto tutto quel cielo. Il babbo fermò i cavalli e si voltò, indicò davanti a sé con la frusta. Ecco qua, Laura e Mary, disse. Quella è la città di Pepin. Laura si mise in piedi sulla tavola e il babbo la tenne per un braccio perché non cadesse, così lei poté vedere la città. Quasi restò senza fiato. Ora capiva cosa aveva provato Yankee Doodle quando non era riuscito a vedere la città, tante erano le sue case. Proprio sulla sponda del lago sorgeva una grande costruzione. Quello era il magazzino, le disse il babbo. Non era fatto di tronchi, era fatto di ampie tavole grigie, tutte messe in piedi, e tutto intorno c'era la sabbia. Dietro il magazzino si estendeva una radura molto più vasta di quella del babbo a casa. E fra i monconi e i ceppi d'albero c'erano più case di quante Laura riuscisse a contarne. Nemmeno quelle erano fatte con i tronchi, ma con le assi come il magazzino. Laura non si era mai immaginata tante case, e una così vicino all'altra. Naturalmente erano più piccole del magazzino. Una era fatta di assi che non avevano ancora fatto in tempo a diventare grigie ed era tutta dorata come il legno appena tagliato. In tutte quelle case abitava della gente. Dai camini delle case usciva il fumo. E anche se non era un lunedì, qualche donna aveva messo ad asciugare il bucato sugli alberelli e sui ceppi intorno alla casa. Parecchie bambine e molti bambini giocavano al sole, nello spazio sgombro tra il magazzino e le case, saltavano da un ceppo all'altro e gridavano. Bene, questa è Pepin, disse il babbo. Laura si limitò ad annuire. Guardava e guardava, incapace di pronunciare una sola parola. Dopo un poco tornò a sedere e i cavalli proseguirono. Lasciarono il carro sulla riva del lago. Il babbo staccò i cavalli e li legò uno per parte alle sponde del carro. Poi prese Laura e Mary per mano e la mamma li raggiunse con la piccola Carrie. Camminarono nella sabbia profonda fino al magazzino. La sabbia tiepida si riversava dall'alto nelle scarpe di Laura. C'era un'ampia piattaforma davanti al magazzino e a una delle sue estremità i gradini salivano dalla sabbia fino alla piattaforma. Laura batteva il cuore così in fretta che quasi non ce la faceva salire i gradini e tremava tutta. Quello era il magazzino dove il babbo si recava a barattare le sue pellicce. Quando entrarono il negoziante lo riconobbe, uscì da dietro il banco, parlò a lui e alla mamma e poi toccò a Laura e a Mary far mostra della loro educazione. Mary disse piacere, ma Laura non riuscì a pronunciare una parola. Il negoziante disse al babbo e alla mamma che bella bambina avete e ammirò i riccioli d'oro di Mary. Però non disse parola di Laura e dei suoi riccioli che erano brutti e bruni. Il magazzino era pieno di cose da vedere. Lungo tutto uno dei suoi lati gli scaffali erano pieni di cotonina e di cotoni stampati. C'erano dei bei rosa, dei blu, dei rossi, dei marrone, dei viola. Lungo i lati dei banchi, fatti di assi, c'erano i barili dei chiodi, i barili pieni di pallini da caccia, tondi e grigi, e c'erano grossi secchi pieni di dolciumi. C'erano anche sacchi di sale e di zucchero. Al centro del magazzino c'era un aratro fatto di legno lucido, con un vomere tutto scintillante. E poi scuri e martelli senza il manico e seghe e ogni genere di coltelli da caccia per scoiare, per macellare e a serramanico. C'erano stivali grandi e stivali piccoli, scarpe grandi e scarpe piccole. Laura avrebbe potuto guardare per delle settimane senza riuscire a vedere tutto quello che c'era nel magazzino. Non aveva mai saputo che esistessero tante cose al mondo. Il babbo e la mamma mercanteggiarono a lungo. Il negoziante tirò giù una dopo l'altra pezze e pezze di stupendo cotone stampato e stese il tessuto davanti alla mamma perché lo sentisse tra le dita, lo guardasse, lo valutasse. Laura e Mary guardavano, ma non potevano toccare. Ogni nuovo colore, ogni nuovo disegno era più grazioso del precedente, ce n'erano tanti. Laura non capiva come potesse riuscire la mamma a scegliere. La mamma scelse due stampati per fare delle camicie al babbo e un pezzo di tela marrone per confezionargli un giubbetto. Poi prese della tela bianca per fare le lenzuola e la biancheria. Il babbo prese qualche metro di stampato per farne un grembiule nuovo per la mamma e la mamma disse: Oh no, Charles, non ne ho proprio bisogno. Ma il babbo si mise a ridere e disse che lei lo doveva prendere perché altrimenti lui le avrebbe comprato la cotonina rossa coi grandi disegni gialli. La mamma sorrise e diventò tutta rossa e poi si scelse un disegno di boccioli di rosa e foglie su un fondo di morbido color fulvo. Poi il babbo si comprò un paio di bretelle e del tabacco per la pipa e la mamma comprò una libra di tè e un cartoccetto di zucchero da tenere in casa per quando venivano visite. Era color nocciola chiaro, non marrone scuro come lo zucchero d'acero che la mamma adoperava per tutti i giorni. Finiti i baratti, il negoziante regalò a Laura e a Mary una grossa caramella ciascuna. Poi Ne furono così meravigliate e compiaciute che restarono lì a guardarle. Poi Mary ricordò e disse: Grazie. Laura era incapace di parlare. Tutti aspettavano che lo facesse e lei non riusciva a spiccicar parola. La mamma le dovette domandare: Come si dice Laura? Allora Laura aprì la bocca, mandò giù e bisbigliò: Grazie. Poi uscirono dal magazzino. Entrambe le grosse caramelle erano bianche, piatte e sottili e a forma di cuore. Sopra c'erano stampate delle parole a lettere rosse. La mamma le lesse alle bambine. Quelle di Mary dicevano: Le rose sono rosse, le viole sono blu, lo zucchero è dolce, così sei anche tu. Sulla caramella di Laura c'era scritto soltanto: Dolcezza a chi è dolce. Le due caramelle erano esattamente delle stesse dimensioni. Su quella di Laura le parole erano stampate in lettere più grandi. Tutti tornarono sui loro passi attraverso l'arenile, fino al carro sulla riva del lago. Il babbo diede da mangiare ai cavalli sul fondo del carro, dove aveva caricato per loro dell'avena. La mamma aprì il cesto del picnic e tutti si misero a sedere sulla sabbia tiepida vicino al carro e mangiarono pane, burro e formaggio, uova sode e biscotti. Le onde del lago Pepin venivano a lambire la spiaggia ai loro piedi e poi scivolavano indietro con un tenue fruscio. Dopo aver mangiato, il babbo tornò al magazzino per parlare un po' con degli altri uomini. La mamma restò seduta con la piccola Carrie in braccio finché la bambina si addormentò. Laura e Mary corsero lungo la riva del lago a raccogliere i graziosi sassolini che le onde avevano fatto rotolare in su e in giù fino a renderli perfettamente lisci e levigati. Non erano sassi come quelli dei grandi boschi. Quando ne trovava uno bello, Laura se lo metteva in tasca e ne aveva così tanti, ciascuno più bello del precedente, che la tasca ne fu presto colma. Allora il babbo le chiamò e le bambine corsero al carro perché i cavalli erano già attaccati ed era ora di tornare a casa. Per la felicità, Laura attraversò di corsa tutto l'arenile fin dove c'era il babbo con tutti i suoi bei sassolini in tasca. Quando il babbo la prese in braccio e la depositò all'interno del carro, capitò un doloroso incidente. Il peso dei sassolini strappò via di colpo la tasca dell'abitino di Laura. La tasca cadde e i sassolini si sparsero sul fondo del carro. Laura si mise a piangere perché si era strappata il suo vestitino più bello. La mamma passò in fretta a Carrie al babbo e guardò subito lo strappo, poi disse che non era niente. Non piangere, Laura disse, lo aggiusterò. E fece vedere a Laura che l'abito non era per nulla strappato, come non si era strappata la tasca. La tasca era un sacchetto cucito sulla piega della gonna dell'abitino, si era strappata soltanto la cucitura. La mamma poteva riattaccare la tasca e l'abitino sarebbe stato di nuovo come prima. Raccogli i tuoi bei sassolini, Laura, disse la mamma, e la prossima volta non essere così avida. Allora Laura raccattò i suoi sassolini, li mise sopra la tasca e se la posò in grembo. Non se la prese troppo quando il babbo si burlò di lei, perché era sempre così avida che si prendeva più cose di quante potesse portarsi via. A Mary non capitavano mai cose del genere. Mary era una brava bambina che non si sporcava mai il vestito e che era sempre ben educata. Mary aveva i riccioli d'oro e sulla sua caramella c'era stampata la poesia. Accanto a Laura, Mary aveva un bell'aspetto, era pulita, il suo vestito non faceva una grinza. E Laura era convinta che questo non fosse giusto. Però era stata una giornata meravigliosa, la più bella di tutta la sua vita. Pensò al lago stupendo, alla città che aveva visto e al magazzino così pieno di belle cose. Si tenne gelosamente i sassolini in grembo e il cuoricino di caramella avvolto con cura nel fazzoletto. Arrivata a casa, avrebbe potuto riporlo e conservarlo per sempre. Era troppo bello per mangiarlo. Il carro percorse la strada accidentata che attraverso i grandi boschi portava a casa. Tramontò il sole, i boschi si fecero più scuri, ma prima che svanisse l'ultima luce del crepuscolo spuntò la luna. E non c'era ragione di temere perché il babbo aveva portato il fucile. Il dolce chiaro di luna filtrava giù dalle cime degli alberi e formava macchie di luce e di ombra sulla strada davanti a loro. Gli zoccoli dei cavalli facevano un allegro rumore ritmato. Laura e Mary Non dissero niente perché erano molto stanche e la mamma stava seduta in silenzio con la piccola Carrie in braccio. Il papà invece cantava a mezza voce. Anche se possiamo scorrazzare tra i piaceri e i palazzi, per quanto sia umile, non c'è niente come casa nostra.